nemico pubblico se, se nemesi vuol dire perdere te, in bilico per sogni infranti e realizzati, in pubblico sempre troppi nemici. Frate, smetti di darmi contro, armonizzati, non ho avuto molto, cazzo dici, ammazzati. Come dentro Will Hunting, la vera ribellione, mischio gli invidiani, mischio te e me unione. Cicatrici romantiche, per essere più veri, balanzasca, ma non è Truman, nemmeno Yes Man. Ho detto no a troppe dame e dame. Fiore d'inferno, albero della vita, avatar d'autunno, cadono gli angeli e tu sei sempre più bella tra mille veli. She is the one, se, ma senza un centro si a me, senza uno sguardo dentro, ha preferito i soldi allo spirito. Sai perché ascoltava il Giuda che sei te, l'hai portata all'inferno e ci sono anch'io dentro. Ma io ora splendo, portando luce nell'abisso come Constantine, salvandoti, dannate rime, Hendrix e me. Fuori come uno spettro, Casper, orrori come in un film horror proiettato su un cuore di vetro, diventa cuore di mostro, la guerra che mi hanno fatto. Come in cocaina, 10 anni da boss, il resto ti spezzano. Tu stai con me, ma è un mondo che ci sta dividendo, mentre io come colla fanno lacrime, unisco te a me per sempre. Rito in celebrazione di amore e ribellione contro la mala informazione, io unico vero, nemici della verità, contro me solo finzione. Ah, Saviano, fumo come uno spettro, casca, odori come in un film horror proiettato su un cuore di vetro, diventa un cuore di mostro. La guerra mi hanno fatto come in cocaina, 10 anni da boss, il resto ti spezzano. Tu stai con me, ma il mondo che ci sta dividendo, mentre io come colla fanno lacrime, unisco te a me per sempre. Rito in celebrazione di un amore ribellione contro la mala informazione, unico vero, nemici della verità contro me, solo finzione. Saviano, nemico pubblico se, se nemesi vuol dire perdere te, in bilico tra sogni infranti e realizzati, in pubblico sempre troppi nemici. Frate, smetti di darmi contro, armonizzati, non ho avuto molto, cazzo dici, ammazzati, ammazzati, ammazzati, ammazzati.